voglia fare amore con me, la cambio io la vita che mi ha deluso più di te, portami al mare, fammi sognare.